però di Alghero c'era Carlo, Mirko, Vanni, capito, ce n'erano diversi, e adesso dice che sono molti di più. Sì, sì. E Vanni, a Vanni gli ho dato l'antenna da dare a un suo amico che la voleva, praticamente l'ha presa lui, si è caricato lui per prenderla, ha fatto da tramite, dai, gliel'ho mandata, ha mandato il cugino, questo qui a casa se l'è venuta a prendere. Ma quella che lui ha dato non l'avevo mai usata, mai usata, non c'aveva nemmeno la magnetica, niente, era col filo, senza piede, senza nulla, come l'avevo, ma non l'ho mai usata. Però lì gliel'ho data nuova, mi pare che costa 70 euro, gliel'ho data 50 euro, ma era nuova, appunto, mai usata. Poi un'altra l'ho venduta lo stesso col magnete, con la base magnetica, lo stesso, la TV 2001, l'ho venduta lo stesso ad Alghero. Sì, sì, perché là si stanno un po' riattivando un po' tutti i vecchi, capito? Però sul 15 lo stesso, io ci ho provato ad andare, ma qua non mi arrivano con l'antennino, capito? A meno che non sia qualcuno che c'è forte, ma difficilmente qua da qua lo sento. Prima invece con l'antenna grande a Voglia, Alghero lo sentivo molto molto bene, mi arrivavano anche segnali forti, capito? E più di una volta abbiamo chiacchierato. E io Alghero arrivo 7-8, 7-9, dipende dalle zone e dipende sempre dall'antenna che hanno loro, capito? Ma già arrivo bene anche io. Alghero, Porto Torres, tu pensa che Porto Torres da stazione base non ce la fa arrivare ad Alghero. Io dalla macchina arrivavo sia a Porto Torres che a Alghero, andando a Porto Torres in macchina parlavo con Alghero. Sì, sì, sì, no, io ad Alghero lo stesso già ci arrivavo, Alghero, Porto Torres, Ossi, Muros, Osilo, Sorso, insomma, già ne ho diciamo diversi di contatti, a volte entrava questo Enrico, mi ricordo Isola Rossa, Trinità da Gulf, quella zona lì, e riuscivo a sentirlo con l'antenna che avevo, più di una volta ci ho parlato, e poi non l'ho più sentito però. Sì, sì, c'erano delle sere che Claudio parlava con l'Oristano, però quando abitava al grattacielo, parlava con l'Oristano addirittura. Lo credo, perché là era molto molto in alto, quindi è ovvio che da lì spazi, se hai la fortuna di abitare in una zona senza ostacoli arrivi davvero molto lontano. Vabbè, comunque anche io non mi posso lamentare, perché la zona del mare di fronte, la zona del mare, di zona rossa, tutta quella zona lì riesco a arrivare. Castelsardo è una zona d'ombra, non lo so perché, ma con Castelsardo, sono da Castelsardo in macchina verso Sassari, non mi sentivo, ma poi sono andato l'Isola Rossa, quella zona lì, e mi sentiva. Che 10? Avanti. Visto. Ma spero io di sistemarmi un attimino come si deve, almeno per fare qualche collegamento, dai. E se no mi devo limitare proprio alla banda cittadina. Ma mettiti quello che hai, avanti break. Sì, buonasera, sono Alfa Bravo. Ciao carissimo, era da molto tempo non ti sentivo. Cioè, anche io ovviamente non mi sono ascoltato. Mi puoi dare un controllo che ho l'antenna a mezza cappa, devi stazionare, non so neanche se mi stai ricevendo bene cappa. Cappa, ciao papà, non mi hai sentito. Io non te lo posso dare, controllo, perché ce l'ho svita a Varo, mi sta arrivando con un Santiago 8 qua, non so però se il segnale sia giusto, perché è un po' Varo come svita. Avanti Carlo. Non lo sento io Gianni, non lo sento, sentivo un più ma basso, quindi c'è il QRM e poi non riesco a sentirlo. Cappa. Alfa Tango, da dove muovo? Io sono fratto comunale, ma noi ci siamo sentiti tantissime volte, non so se te lo ricordi, sono un po' che non entro, non c'è mai nessuno. E adesso te lo ricordi, parlavamo sempre con alle 3, e l'amico lo sento, poi mi direi da dov'è, ed è, però è basso, c'è un rumore, guarda, c'è una preparazione, mi sta soltanto, non ci sono più abituato. A te ancora. Sta dicendo Marco Condor forse? Sì, Marco Di. Sì. E non sai cos'è, che Carlo ha cambiato di casa, quindi non ha potuto ancora trasferire l'antenna grande, sta uscendo con un antenino di macchia, tutto lì. È per quello che non vi sentite. Ah, ho capito, ma Carlo, quello che c'era con l'antenna lunghissima, che ci aveva anche Claudio. Ma metterà quella, Carlo, vero? Rimetti l'antenna che avevi là. Se ci riesco sì, volentieri, perché quella era una bomba di antenna. Non fare l'errore di mettere altre antenne, se ci riesci metti quella lì, va molto bene quell'antenna, anche a 9.30 mi arrivavo con quell'antenna. Già lo credo, arrivavo un po' a tutti con quel segnale, ad Alghero io ci arrivavo Santiago 9, senza attaccare niente, mico 5 watt. Sì, anch'io così, senza attaccare nulla. Santiago 8 o 9, dipende, Cappuccini, la zona dei Cappuccini, lì Alghero mi sentivano più basso, però c'erano delle zone che mi sentivano bene. Chi era che aveva chiesto il break? Io non ho sentito niente. Alfa Tango, avanti. No, Alfa Bravo, Alfa Bravo, Gianfranco. Siamo anche conosciuti. Che ti avevo dato un portatile proprio per la musica, non sono riconosciuto. Ciao Fra, ti sto prendendo in giro, dai, ti ho riconosciuto. Ok, io ho provato a mettere un po', fammi vedere qua. Sono 5 watt, la lanciatore stazionaria è a 4 watt. La Game Master è da un po' di tempo che deve essere entrata acqua, ma posso assicurare che una volta l'ho vista a terra, per le tempeste che ci sono in questa zona, è quasi miracolosa con l'antenna. Oh, va a aprirla e dare una pulita con lo spray per contatti nella carica lì. Purtroppo anche le antenne vogliono, diciamo, bisogna fare un po' di manutenzione. È già troppo che non ti sei troncata, perché si tronca tutti con l'antenna. Salutalo a Gianfranco. Sì, se l'è ricordato anche lui adesso. Ciao Carlo, non so se mi senti, ho provato a aumentare, però c'ho stazionario veramente, tanto di non bruciarlo perché sta parecchio e c'è una ricezione esagerata, è il vecchio di Lincoln 2 più, e vuol dire che va molto bene, infatti non c'ha neanche più amplificato, non c'ha niente, è una bombetta, un apparecchio. Gianni, ti volevo dire, purtroppo l'antenna è stata sottoposta a dei eventi violenti, ma proprio violenti, perché qua è aperto, c'ho Monte Oro abbastanza distante, però quando scende da Monte Oro, Mazzale, il Beccio e compagnia cantante, l'antenna si piegava in una maniera terribile, però io non commetto mai l'errore di ancorarla a video oscilla, come anche le antenne VHF e UHF oscillano parecchio, si piegano tantissimo, ma non si spezza, capito? Quando si spezza, quando tutto il carico lo mandi sull'antenna, guardiose, ma anche se ci metti, insomma, una 510, ma lì a monotone si spezzano lo stesso. L'importante è fare un pochettino a oscillare. Mi presento che io di antenne mi dico, ho la penne 8 più varie. E quindi è una opzione si fa, ma sai, adesso anche per me viene un pochettino male salire a un'altezza di 8 metri, montare antenne del genere, è un bel peso. Già, se non ce la fai ti fai aiutare, dai. tu che stai andando e abbassandoti di radio perché il QRM si sta alzando, quindi ti sta comprendendo. Se poi alza un po' la radio, avanti Carlo. Sì Gianni, ho capito, salutalo Gianfranco da parte mia, io purtroppo non lo sento se sono in condizioni un po' precarie, dai, con l'antenna, e spero di sentirlo in radio a breve, dai, speriamo bene. Ti prendi già. Ehi, adesso penso che ti abbia sentito che attaccata. A parte Gianfra, l'hai sentito? No, no, io lo sento sempre, io lo sento sempre. Solo c'è molto rumore, provo a cambiare radio, cioè cambiare radio, cambio radio e cambio anche antenna ovviamente. Non so se andrò meglio o andrò peggio perché è un po', anche se lì di 80 metri di lunghezza, ma qua ci dovrebbe stare bene. Capo, allora, prova a cambiare, ma ti stava adesso, per dire, il QRM ti stava coprendo proprio. Avanti Carlo. Non lo so perché ho attaccato un attimo per vedere se mi sentiva Gianfranco. Anche lui qua non mi arriva, capito? Evidentemente non riesco io a prendere i segnali dalla zona dove abita lui, capito? No, lui ti sente, Carlo. Ah, capo, sì, perché adesso ho attaccato e ho detto magari prima ero anche il bastone di radio. Però insomma va benissimo, salutoni Gianfranco, anche se non ti sento, mi piace, però già mi ricordo sempre di te. Magari nel momento che sta cambiando radio non ti ha sentito Carlo, ripeti poi il passaggio perché sicuramente sta cambiando la radio. Claudio, ma ci sei? No, ancora no, sta andando, fra poco, fra poco guarda, ti è venuto già a chiamarti. Quanto stanno arrivando fulmini dalla parte di Alghero, allucinanti. Ma stanotte è verso le 4, e sentite le barriere da Gaffani? Signora Gentesia, sì, poco perché io ho tutto il doppio vetri come gli sportelloni, la notte chiudo tutto qua, quindi poco, ma ti ho messo una cotta stamattina. Grazie, lo conoscevi a Giantonio Corda? Ti ricordi? Ho detto, lo conoscevi a Giantonio Corda? Quello che stava a satellite, che era un simpatico, stava sempre facendo battute, aveva la moto carrozzetta. E l'ha ammazzato uno con la macchina, che era senza patente, la bida di pieno con la moto carrozzetta e l'ha ammazzato. Ah, lui è quello del moto carro, ma perché? Dove è successo? È successo al Biblio di Sorso, lì. Dove c'è il Biblio di Sorso, c'è del portatore. E lì c'era gente la patente addirittura. Non l'ho portato via l'elicottero, ma c'era tutto sfondato, poveraccio. Tu non mi stai in apparizio moto carro? Era così simpatico, però sempre facendo battute, si avvicinava, ti dava la pacca sulle spalle, era troppo in gamba. Sì, già me lo ricordo, di Antonio. Me lo ricordo. Poveraccio. Vabbè, purtroppo. La vita è così. Avanti, Carlo. Io non l'ho conosciuto già, non l'ho conosciuto. Ho sentito di quell'incidente lì, già l'avevo sentito, però non ce l'ho presente, capito? Niente, ragazzi, per me inizia a essere un po' tardi e vado a prepararmi il rancio. Domattina inizio presto e niente, quindi adesso stacco tutto e vado via, come diceva quella canzone. Ciao Claudio, ciao Gianfranco, se mi senti, Gianni, salutoni alle prossimine, dai, aspetto il vostro saluto e poi chiudo. Ehi, allora, ciao Carlo, buona carica quando la fai. A risentirci. Avanti, qua. Ciao Carlo, alle prossime, dai. Intanto sono già le 8:15, adesso Gianni è. Vai a portare il carro prima che piova di più, perché adesso sta piovendo un po'. Ciao Carlo, alle prossime. Ciao anche da parte mia, se mi senti, Carlo. Ciao Claudio, beato che ti sente. Chi è? Ciao Franco. Ciao Franco, tu sì? Tu sei nel barracchino e ti sento poco, dove sei? Sono a casa. sono a casa ma ho l'antenna in avaria, ho provato a chiamarvi col di Polo ma non fa. In compenso sul canale adiacente c'è un americano che mi sta addirittura splatenando l'apparecchio decametrico di quanto arriva forte, è proprio un canale sopra. Ne capisce però, è buono, adesso sta anche piovendo, quindi conto entro questo mese di buttare giù l'antenna perché ho 4 di stazionaria. Un attimo, là, io faccio il correttivo, vi saluto cordialmente a tutti, anche agli ascoltatori, ciao Claudio, ciao Gianfranco, ciao a tutti i nostri amici. Quale tipo armè esecutivo, dai, potete scare giù, ha ragione a dopo se piove lo vediamo subito. Ciao ciao! Ciao ciao ciao, a domani, ci sentiamo domani, vai Gianfra. Sì, ciao Gianni, se accendete ancora, se esiste ancora qua il canale 10, ma anche gli altri, è già centro, lo tengo sotto monito. Buona serata comunque, a quanto? Ecco. No, entrate, abbiamo ripreso un po', mi ci sta entrando anche Roberto, adesso ho sentito il becco. Entra Gianfranco, ogni tanto io la sera una chiacchierata me la sto facendo, non ci sono problemi, se no veramente va a morire del tutto questa frequenza. Avanti Roberto. Buonasera a tutti, ben risentiti su altre bande, no, bello, sempre interessante farla funzionare. La 27, ciao Claudio, ciao Gianfranco, ho sentito di sfuggita a Gianni e basta, non so se ci sia qualche un altro. Ciao dai, ti saluto Roma, io sono andato via. Ma fu un piacere che stai entrando, vai, entra ogni tanto. Ci sentiamo, buona serata. Kappa. Vai Gianfranco. Sì, ciao Gianni ancora, alle prossime, buona serata anche a te. Ciao Roberto, ci si incontra sempre nei punti più strani. Io ho provato ad attaccare anche l'altro apparecchio, l'altra col di Polo, ma niente proprio. In compenso sento gli americani. Boh, vabbè, come ho detto. Qua la Game Master va tolta giù, aperta e non so già cos'è, perché è una tenda molto semplice, sicuramente è entrata l'umidità e ha corroso un pezzo di plastiale che è un difetto tipico, basta ricollegarlo. Il problema è se deve trasfilare tutto lì, però ci vuole tempo, da una cosa all'altra ci sono tante cose da fare. Riprendi Roberto. Giancarlo, un giorno siete sentiti un sacco di volte, ho detto, ma che fine ha fatto Giancarlo, che fine ha fatto? Ho detto, ci ha buttato la licenza, ha cancellato le radio, cosa ha combinato? Invece me, in un altro posto che non ci avrei mai pensato ti risento, comunque è un piacere riascoltarti. Ok, che radio state usando per curiosità? Sia Gianfranco che Claudio. Io sto usando esattamente il President Washington 220 con l'MB più 5, perché quando ieri stavo usando l'Elmex e poi stavo usando, ho tirato fuori anche il Galaxy, insomma li sto provando, Roberto, per vedere quelli che funzionano, capito? Questo è il President Washington, 40 canali con le bande laterali, insomma il microfono è l'MB più 5, ma vabbè. Una bomba, fortissima, infatti non riuscivo a capire che radio è. Superi leggermente il 9 più 20, Gianfranco un po' più basso di radio ed è 9-10, non ascolto perfettamente. E tu Gianfranco che radio hai? Io sto usando un Lincoln 2 più, guarda, 24 a 30, a 30 e spicci, forse 31, non lo ricordo. Niente, va benissimo, è l'antenna che sta dando un valore di stazionario che è più terribile, però ripeto, qua non è tanto semplice buttarla giù, perché non si tubidabile, quindi devo mettere la gruetta per scenderlo, insomma è un lavoraccio la casa. Sì, mi ha detto che se... No, io ci sono sempre in radio anche, solo che stiamo sempre facendo prove in digitale, siamo sia in UHF sia in UHF, anche con Domenico, stava, eccetera eccetera. Allora, detto, ho preso con l'ottamento Roberto, abbiamo fatto un'operazione, il 578 della Nettone, una bella radio, ancora l'ho provata, solo in analogico. Certo, io ne ho due. Peccato per quella che c'è Claudio, che va molto bene in simplex, però c'è subito un problema col ponte radio, col ponte qui, non lo so se la tua zona, tu c'hai anche il giro da parte, non so se vuoi raggiungere il centro. Gli americani non stanno arrivando. Claro, com'è il livello microfonico di questa radio? Ma Roberto, ultimo, no, a toccare, ti sto sentendo col baracchino. Vabbè, questo baracchino c'ha una recensione favolosa, non peraltro si chiama President. E va bene. Ascolta, quindi questo baracchino dà esattamente, stavo misurando, dà esattamente 12 watt e 15 modulati. Il segnale è buono, la terra radio mi ha detto che va bene. Il segnale è super il 9,20, Giancarlo, Gianfranco ha detto 9,10, invece è 9,15 lui, però la radio c'è una differenza totale, lui è un microfono probabilmente normale, non amplificato, tu sei sparato, arrivi fortissimo di radio. Adesso mi più 5, devo provare anche il tunnel più 3, il tunnel più 2, l'altro che c'ho, la Runis e il mio microfono, sono tutti da provare, mettere le batterie e provare. Mi sono rotto le scatole, questi baracchini vanno controllati, provati, in modo che so che sono funzionanti, capito? Ok, vabbè, sei entrato in ritardo, ti lascio con Gianfranco, entra la sera, perché io ci sono, è entrato anche Gianni Lubrofetta stasera, io ero con Fabrizio, anche Gianfranco, mi fa piacere sentire anche tu, così animiamo un pochino, perché le notizie ti arrivano. Io vi ascolto sempre, ma niente, oggi. Né a Fabrizio, almeno rischi di tirare su questo cacchio di baracchino, tanto l'importante è fare radio, soprattutto adesso che arriva il freddo, ci facciamo due chiacchiere come abbiamo sempre fatto. Io vi lascio perché è tardi, devo andare a cenare e poi mi guardo il TG. Ciao Gianfra, grazie per essere entrato, ciao anche a te Roberto, e se ci siete ci sentiamo domani. Vai Gianfra. Sì, ciao Claudio, fate sentire allora. E ovviamente oramai sta arrivando tutto, prima di buttare giù l'antenna di accordarla prima che mi faccia anche l'apparecchio, un certo livello stazionario. E buonasera anche a Fabrizio, che rilancia tutto. A te Fabrizio. Sì, ciao a tutti, ciao Gianfranco, ciao Claudio che sta chiudendo. No, vi ascolto, che sto tutta la sera cercando di fare una riparazione. E invece ho fatto un danno e sto aprendo un componente, ho fatto un corto, ovvero devo prima rimettere a posto dove ho fatto danno. Dai, ci sentiamo dopo. Ciao Presidente, torno alla cena, ciao a tutti. Ciao Claudio. Ciao, buona cena. Ci sentiamo fra un po' magari. Fabrizio arriva a 9 più 40, la radio dà paura lo stesso. Beh, siete lì a tre passi, se più lontano sono io. Vabbè, Fabrizio c'ha un altro tipo di radio, siamo molto più vicini, tante cose che possono influenzare sulla la cosa. No, ti ascolto perfettamente, Gianfranco, senza nessun problema, il segnale è fortissimo, 9,15, cosa vuoi di più? Ma figurati che con l'antenna buona sono 30 watt, un'antenna che sicuramente se c'è stata qualche cosa all'interno, se avessi vinto il capo, mi stanno 5 watt, capito? Ehi, dice che si è sentito anche Vanni Rubroffetta, Gianni. No, quando sono entrato io c'era Carlo che era quello che c'era l'antenna lunga che non mi ricordo il nome, cioè forse nella zona di Monetto, adesso ha cambiato casa e quindi deve cercare di ripiazzare tutto lì. No, Carlo, già era capitato tempo fa di sentirla anche di persona, mi sono sentito, ma Gianni Lubrofetta, qualche anno che io non lo sentivo in più, ma infatti proprio l'altro giorno gli ho nominato il suo nome con Antonio Bombolo, ho detto, ma Antonio, come si chiama, Gianni, più sentito, e anche lui era da tanto non lo sentivo. Sì, mi ha detto che non so se è insomma la Nissan era un po' così. Come era programmato, con la tastiera oppure col cavo? Guarda, io non l'ho neanche toccato, l'ho solo provato ad accendere, era dentro la scatola, l'ho mai usato, ancora col cavetto dentro, col nastrino, nella bustina, eccetera, eccetera. L'ho preso per avere una radio digitale, perché c'avevo la Neton, quello, il palmare. Questo qui è il 578 Pro, quello che c'ha il GPS pure, che c'ha il microfono, che ha giù mai più grande della radio, non so se ce l'hai presente, è bellino, c'ha un piccolo display, c'ha dei 1, 2, 3, c'è P1, P2, P3, sino al PC, poi due tasti menu ed exit e l'accensione, altre manopoline. Ah, è piccolino. Guarda che io ne ho, cioè, la Nissan 171, l'ultimo prodotto dalla Nissan, e poi c'ho l'878, il primo, che devo dire che funziona benissimo, completo, sempre PRS, tutto quanto, Bluetooth e compagnia cantante, e poi c'ho l'ultimo Nissan, l'878, che lo stesso c'ha tutto, e c'è anche fare microfono, la palmo e così. Devo dire che l'878, anche perché costa molto più caro, meglio dell'ultimo uscito, non 6-8, quello piccolino, che secondo me è un po' così, però possiamo perfettamente, la verità, i digitali sono formidabili, dialogano gli apparati professionali tranquillamente, e quindi non posso aumentare. L'ho provato in 144, c'ha un bel altoparlante, non me l'aspettavo che fosse così efficiente, considerando le dimensioni della radio, molto piccolino ma molto nitida la ricezione, e mi hanno parlato bene che funziona anche in coso, in trasmissione va molto bene, e parliamo di analogico, digitale non ho ancora provato, dovrò fare un'operazione alla veglia, poi al momento opportuno se avrò qualche problema mi darai delle info tu, perché bisogna registrarti, l'avevo iniziato anni fa l'operazione di registrazione e poi avevo bloccato tutto, poi vediamo un pochettino per vederlo. Dai. L'ho preso così, anche se non sono il mio genere di radio che piacciono, piccoline, questo va benissimo in macchina perché è molto carino, non è ingombrante, c'ha il Bluetooth, tante cose importanti, dai. Però a me piacciono le radio grandi, io sono fissato per quello. Adesso ho preso l'altro giorno, mi è arrivato la settimana scorsa il 790, che c'ha anche la scheda del 1200, ho fatto una prova con Agostino proprio avanti ieri per vedere se funzionava, così l'ho attaccato alla 7000, così ho tolto anche lo sfizio di avere la radio per il 1200, anche se probabilmente ci sarà ben pochissima gente, però fare delle prove almeno sei operativo. E poi ho preso una radio che sinceramente, chiedo anche info a te, è una radio che lavora da 903 a 906 mi pare megahertz, come si chiama, impostabile la tastiera, non aveva il microfono che me l'ha data, e meno male in tutte quelle imbarazzi che c'avevo io ce n'è uno che c'ha un micro attacco, tipo c'è presente quello del Kenwood, che è il Kenwood Ecom, ha 8 connettori però piccolino, molto sottile, e meno male in mezzo a tutti i microfoni ce l'avevo uno, non so per cosa potesse servire una radio, perché era nella frequenza adiacente ai cellulari. Avanti ancora a te Gianfranco. Ma che radio è? Quelle cinesi a basso prezzo? No, che radio cinesi, costava una barca di soldi, questa è una radio, l'ha fatta sia la NEC, ma stiamo parlando di una radio anni 90, questa è della Superstar modello 500, aspetta non mi ricordo neanche il modello, che piccolino con l'altoparlante frontale, c'ha il microfono, la cosa strana non ce l'ha dritto, ce l'ha di traverso questa radio, c'ha un'alimentazione e poi c'è un cavo che non so che cosa serva, l'attacco AN per l'antenna, è una radio, ma che non era per qualche frequenza magari di qualche nazione tipo Giappone, America o cosa del genere, perché qua in Italia per quanto ne so io quelle frequenze simili, diciamo vicine, erano dedicate ai Letax, ai vecchi telefonini, infatti ho detto non riesco a trovare informazioni, ho trovato qualcosa su internet, anzi me le hanno mandate, però non si capisce perché cosa, che utilizzo ne fosse dedicata a questa radio. No, ce l'ho avuto anch'io delle radio piccole, però erano moderne, non erano quella che c'è tu, c'era un'antenina a corda e lavoravano sulla gamma 800 di terra. Adesso non mi ricordo se 830, 840, del genere. E ne avevo due, e ovviamente le distanze hanno una grande potenza neanche, perché è così. E sono di uso libero, e la frequenza, certo anche quella che stanno usando con lo yacht, forse dell'ora, e quindi alla fine veramente della nostra povera 433 che tra poco non si potrà neanche più usare la casina che c'è. Allora, il modello è Superstar 5501, mi sembra c'ha 25 watt questa radio. Boh, non è certo cosa usabile in Italia, allora. Quello che c'avevo io, mi ricordo se erano 100 mili, una cosa del genere, una normativa non permetteva di dire. Radio ottiche, magari andavano anche lontano, se erano in ottica portata, però in ottica così, con palazzo in mezzo, già non funzionava, l'UHF è giù da qui. Così. E niente, ho una curiosità, ma tu all'imbara ci arrivi? In analogico non credo, almeno non ho provato con l'antenna nuova, perché adesso ho messo la 510 e l'ho sforzata e ho visto dei segnali che prima non ricevevo, li stavo ricevendo, molto più forti, arrivano più forti, ho guadagnato qualche punto rispetto alla 7000, però la 7000 è attaccata verso il muro, in digitale può darsi, non lo so io. No, se voglio fare una recensione, stavo riguardando, ero un scatto, vedo si chiama. Cosa ti volevo dire? Sì, comunque, vedi cosa succede? C'è chi ha aperto in un posto e c'è chi è totalmente chiuso dall'altra parte. Ovviamente tu c'hai di fronte usilo, come ce l'ho anch'io, ma io essendo lontano, se sto a passare nella stella, eccetera, Monte Santa Vittoria, è l'alto e comunque sono in bara, ci arrivo con segnali distinti, capito? Tu invece sono centro in pieno, me ne sto Santa Vittoria, o la montagnetta di Usedo, dove sono i ripetitori, e lì si è fregato proprio, ma neanche a ballo. Io sono troppo ridossato nel coso, nel monte di Usilo, tu che sei più indietro riesci a passare, così Fabrizio, lui Fabrizio parla frequentemente con coso, come si chiama, con Paolo di Olbia, e io lo sentivo almeno con l'altra antenna, ma proprio nel fondo lo sentivo, adesso voglio provare, perché l'altro giorno è capitato dei segnali che non ascoltavo con la 7000, il ponte, quello di Imperia, con la 510 nel traliccio lo ascoltavo, 3-4, mentre con la 7000 non ascoltavo, infatti voglio vedere se ho migliorato nella zona di Olbia, se magari adesso magari di 1-2 il segnale ti riesco a tirarlo fuori a Paolo. Monterasu ho migliorato utilizzando la 510 più in alto e posizionata diversamente, però le onde già lo sai meglio di me, sono inspiegabili molte volte, tu dici c'ho un monte davanti e magari riesci a parlare, poi ce l'hai libero e ti trovi in difficoltà, come con Pierluigi, la stessa cosa, e ti reddo dietro in un fosso e io arrivo a rivolto da lui e lui ha la stessa cosa da me, mentre altri qua a Sassari in posizione ascoltavano 3 e dici com'è possibile, è inspiegabile. Adesso stavo dicendo nominativo, non lo diciamo perché sono ok. E di nuovo Gianfranco, ho sentito qualcuno mettendo portantina, non so se stava provando qualcosa, proviamo a lasciare un attimino di bianco e vediamo se vuole entrare. Avanti, chi vuole entrare? Canale 10. Vai Gianfranco. Vedi com'è, adesso si è abbassato tutto il QRM. C'è una ricezione splendida, c'è questo apparato sia l'antenna, anche se la trasmissione non è funzionale. Guarda, io vado tutti i giorni, sono sempre in aria, in UHF, sia in UHF con Domenico che è auto, quindi si può immaginare in diretta. In analogico è un po' fastidioso oramai ascoltare, perché c'è rumori, ci sono i francesi, sono in digitale, invece è una telefonata, non c'è problema, anche S0 lo sente, figurati. Dimmi una cosa, l'R0 quando ti arriva? L'R0 arriva forte, però anche Domenico mi stava dicendo che c'è un casino di disturbi, c'è questa portante temporizzata, che ogni tanto lo fa entrare in azione, ma non so cosa pensare di essere, se è un disturbo totale. Allora, no, sono l'unico che l'ha sentita, infatti l'ho detto l'altro giorno, a fare tanto si sente questa portante, non si capisce cosa sia. Cosa ti volevo dire? Mi hai abbassato il segnale, ho sentito un po', eri un po' frusciato in questo passaggio, Gianfra. Stavo facendo la parete, aspetta che lo tocco. Fattore dietro, era freddo, quindi niente, l'antenna, fare anche più brutto, figurati. Dimmi una cosa, di radio tu mi ascolti bene? Sì, sì, abbastanza. No, confrontata come intensità rispetto a quella di Claudio, la sua era sparata, la sentivo fortissima. Senti, ah no, forse era l'altro. E vabbè, ce ne va. Sono adesso sto parlando sotto qualcuno. Claudio è una radio CD, sparata. La tua è una radio da salone, secondo me. No, parlo come intensità, come forza, non parliamo di qualità, per farmi un'idea io. Ah, normale, una radio normale. Cioè non senti amplificazione nella mia? Ma leggera, però dal punto di vista qualitativo è sicuramente migliore di una radio amplificata. Tieni presente che sono meno di uno di microfono, posso alzarlo. Ma perché la puoi rovinare? La radio non ho capito sempre. C'era uno che diceva, sta funzionando, sì, perfettamente, però se no tocca nulla. Anche io ero di quelli, non tocca, te lo ricordo Riccardino, non tocca. Mi meraviglia che col bipolo non sento proprio niente. Cioè, se mi sposto su un lato di questo canale sento gli americani. Se mi sposto sul canale non sento le trazioni stesse. Vabbè, mi capisce come. A volte veramente puoi mettere tutte le formule che vuoi, tutta la matematica che vuoi, ed è tutto contrario di tutto oramai. Dimmi una cosa, Gianfra, nel 1200 sei operativo tu? In ricezione sì, c'ho tutte, arrivo fino a oltre 3 giga, però sono, ripeto, in ricezione, perché non mi interessa come frequenza, non mi attira più di tanto, anche perché sono più risultati, considerato che costo di apparati a 1200. No, pensavo, mi ricordavo male, ma tu hai avuto un periodo alla radio, 1200 qualche prova l'avevi fatta con qualcuno, o mi sbaglio? Io all'inizio c'avevo il famoso apparato della Kingwood, quello con cioè, tre manopole di squelce di volume, quindi c'aveva nel display tutte e tre le frequenze, un gioiello, c'avevo la macchina. Avevo un diplexer per usarlo, poi è iniziato a bruciarsi il modulo e quindi ciao, era il top di gamma all'epoca della Kingo, ma sto parlando di quando ero ragazzo e quindi faccio un po' di conti. Quindi addirittura il tribanda hai avuto, no, quella è una radio molto rara, tra l'altro molto ricercata, no, perché poi c'è un amico della Kenwood, c'ha il 1200, proprio il veicolare 1200, il gemellino del bimbanda o del monobanda, solo 1200 però fa questo. Ma trovarla è anche difficile, sono pochissimi quelli che ce la mettono, perché è una radio da diretta e basta. Una montagnola, tutti la parabola presso, il discorso cambia la giornata, però usata così in situazione base non so cosa possa dare, ecco, senza l'ausilio di questo. No, era più che altro per averlo, a me mi è capitata questa occasione, quello Luca della Mascar, dovevo prendere una radio, era deciso tra 2,75 e 9,70, però non avevano i 1,200. Poi mi è capitata questa occasione e l'ho preso al volo, c'era già gente, mi ha detto qua sto trattando con uno, se non mi risponde al telefono, cioè se non mi richiama tra un'ora ti chiamo a te. Subito mi ha chiamato, pronto, gli ho fatto subito il bonifico e me l'ha spedita immediatamente, mi ha mandato tutti i video, una persona seria. Poi quando è arrivato mi hanno telefonato se la radio è tutto a posto, se è arrivata in ordine, no, una ditta seria, non è di senza far nome qualcuno che ha tirato a fregatura un nostro collega che gli ha dato il 1,200 ed era rotto, ha cercato di fare il furbacchione. Ma questo, ho preso tante cose anche a buon prezzo, devo dire, su certe cose rispetto ad altre era anche più economico. Poi una persona, quando tu parli con la persona, ti risponde al telefono, ti spiega tutto, ti manda il video, ti fa vedere la potenza, le funzioni e tutto, dimostra che è una ditta seria, non è di quelli che le mettono su internet. Poi, visto e piaciuto, se poi non funziona mi ha dato 6 mesi di garanzia, per cui è anche una ditta seria. Sì. Io mi ricordo che c'avevo anche il rosmetro per i 1,200, però non me lo ricordo più. Ah, era il Revex, era il Revex, che aveva la cosa esterna, come si chiama? Ma non mi viene il nome, va bene, l'interfaccia esterna per misurare il 1,200. Addirittura non l'ho mai visto. E all'epoca costavano parecchio, era roba molto molto molto cara, quindi anche comprarli, il problema all'epoca erano anche tutte apparecchiature comunque molto delicate, perché allora c'erano così, i finali erano a modulo, no? Si rompeva il modulo, poi non è come adesso che si trovi tutto dalla Cina, eccetera. E di lì erano prezzi favolosi, la riparazione, il montaggio, anche se erano 4 saldature, io prendevo fatto la saldatura, insomma, ci facevano dei bossi di riparazione. Adesso si rompe una radio, prendi e la sostituisce per prima. Ciao, interessante quella nitone che la ventola si inserisce, come schiacci la portante parte la ventola, se è spento, cioè se tu non stai trasmettendo rimane spenta, e quella è una cosa secondo me molto logica come chi l'ha messa, diciamo, questo sistema qua. Adesso mi stai mettendo un po' in crisi, o sono io che non ho fatto tutto un po', o potete spiegarmi, ma non mi ha detto che c'è l'8-7-8. Io ho il 578 o 57 D578 Udine Vicenza Pro, è la versione che c'ha anche il Bluetooth e il GPS e APRS, c'ha tutto quanto quello. Vabbè, quasi quelli che ho tengo, io ne ho proprio venduto uno, era la cosa vecchia, l'unica cosa che non c'aveva la banda aerea, adesso di quelli ne ho due. Non fa la inflazione, facciamo anche la banda aerea, per dire, proprio più due. Sono aggiornati all'ultimissimo software, hanno la funzione, cioè vabbè, io te lo dico, però se non capisco qualcosa me lo dici, la funzione SFR, quindi fanno da ricettore per estorsione, proprio da ricettore in digitale. In analogico si possono fare il cross band oppure il cross band misto, digitale analogico, insomma un apparecchio abbastanza completo per il costo che ha, credo che tenga 350. No, questo non scherza, 400 e passa euro costa questo apparecchio qua, anche questo c'ha la banda aerea. La cosa che mi ha impressionato è che c'ha 55 watt in V e 40 watt in UHF, e non sono pochi. E poi aspetta, cosa c'ha questo? C'ha un sacco di roba, è nuovo, un apparato che ancora c'è attuale, è ancora in produzione, è uscito da poco questo, forse è il sostituto dell'878, perché l'878, per come stavo leggendo, esiste già da qualche anno, questo è nuovo, proprio nuovissimo. No, attenzione, l'878 c'è sempre ed è il portatile, capito? c'è il lotto 78 portatile, che è il 2, e c'è il veicolare, che è il 578, che è il 982. Quindi sta sempre un pochettino, magari quello che stai dicendo tu è, cioè, sarà un 7888, che ne so, perché sono questi numeri, non si capisce un po'. Però se parliamo di apparati digitali, 578, l'878, come sono i più venduti, oramai penso che il portatile 878 sia il più venduto in assoluto come portatile. Costa credo intorno alle 200, non c'è più da 180, 200, però è una prima radio, No, non lo metto in dubbio. E poi c'ho anche l'168 io, adesso non me lo ricordavo, l'altro è Niton, che è lo stesso nuovo fiammante in scatola, l'ho fatto solo una prova così, per divertimento e basta. Però in digitale, ti ripeto, non l'ho ancora usato. Questo qua, questo veicolare, la cosa che mi impressiona è questo microfono che c'ha, enorme, è una, c'ha una marea di tasti, funzioni, doppie funzioni. Aspetta, devo leggermi bene le istruzioni perché non ho ancora avuto il modo di provarlo, ti ripeto, ho fatto solo una prova. E VHF sì, di bello c'è anche che c'è tante regolazioni, quindi per regolare il microfono in analogico, per regolare il microfono in digitale, guarda, tu pensa che l'ultimo ripetitore che ho preso io dell'Itera costa 1200 euro per una radio veicolare, sempre in, tra l'altro è monobanda, sì, è monobanda, non è un bibanda. La Nitone ovviamente ce ne sono credo 2,5 o 3 quasi, e fa le stesse cose, le fa sia in VHF che in UHF. Certo, era un'altra cosa, è un professionale tosto che la balla, tante volte io siccome sono sempre un coglionito mi dimentico di commutare l'antenna e vado in trasmissione con questa antenna, poi me ne accorgo, è comodo, però se tu la facevi proprio con quel tempo tu là che ti avevo detto e sentivi poc. No, ma mai stanno miniaturizzando questi cinesi, adesso ammazzano, se entrano nelle radio HF, stanno già entrando, però non hanno roba diciamo grossa, potente, ho visto, sono diciamo per far QRP, però sono già belle radio. Se entrano nel mercato ammazzano tutti i Kenwood, Yaesu e Icom, li distruggono, perché loro prendono, copiano tutto e per certi versi lo fanno anche meglio. E miniaturizzano tutto. E io ho visto quelle Quansheng, quelle radio che hanno il frontalino, sembra con frontalino estrabile, che sono grandi quanto un 140, un 440, ma sono con analizzatore di spettro, waterfall, c'ha tutto, una cosa bellissima, costano abbastanza ancora, però se iniziano a farle in grande serie, quelli spaccano tutto, come stanno già iniziando con questi veicolari digitali, perché non ce n'è concorrente della Yaesu e della Icom, hanno loro il sistema proprietario, ma questo DMR non hanno fatto ancora niente la Yaesu e la Icom. No, perché la Icom ad esempio ha una mentalità, come anche la Yaesu e soprattutto anche la Kingwood, perché voglio dire, proprietaria, diciamo, no, io per gli animatori non ne faccio, perché le posso mettere il D-Star al massimo, se sono Icom, se sono Kingwood. La Yaesu si può mettere C4FN come sta facendo, però DMR non ce lo metto perché io fabbrico gli apparati per il privato in DMR, la Kenwood fa DMR anche, poi guarda i dritti quanto sono, quindi è una nicchia separata, non vogliono fare, questa è una politica che i cinesi non fanno, non ne frega niente, loro fanno, oramai li hanno anche superati e tecnologicamente sono molto molto avanti, le università che c'hanno in Cina se ne ridono anche gli americani, se che ne dica Trump, e quindi sono molto molto molto avanti, c'hanno una produzione molto severa, e tu prova ad andare a comprare un apparato tramite AliExpress, tu prendi lo stesso apparato della Nikone, io faccio un altro posletto, AliExpress te lo quando è più caro, semplicemente, e tu dici, ma come, siete in Cina e lo mandate più caro, perché di lì si mettono d'accordo, hanno detto no, noi abbiamo l'agenzia europea di lì e questi sono per l'Europa e quindi a noi non ci dovete, anche loro hanno le multinazionali, no? E quindi impongono i loro prezzi in Cina. Lo trovi da Media Globe che costa molto meno di quello che lo puoi avere in Cina. Si può sembrare strano, ma è così. Ma la stessa cosa mi è capitata, non c'entra niente come il discorso cinese, ti ricordi quel 950 della Barrett? E quello lì lo fa Radio Surplus Italia, invece c'hanno una consociata in Francia, io tu ho comprato tutto il frontale intero col display, con la tastiera e tutto quanto, però devi solo attaccare, c'ha un connettore da infilare, come si chiama, quei connettori a pettine, e poi c'era una saldatura, mi sembra, per la cuffia, per lo speaker, per la tua parola esterno. Qua costava 250 euro e io l'ho pagato 143 euro, preso da su Radio Surplus Francia, che è la stessa cosa, è la costola di quella italiana, non si sa per quale motivo in Francia costava la metà di quello che potevo pagarlo in Italia, infatti tutti mi fa fare a me prenderlo in Italia lo stesso prodotto, quando c'è in Francia che è così, lo stesso discorso che hai fatto tu, loro li interessa entrare nel mercato europeo, la stessa cosa sarà anche per il mercato americano, che i dazi non gli spezzano le gambe, come stanno entrando le macchine, tu non hai idea cosa stanno entrando di macchine adesso cinesi, ma a prezzi assolutamente concorrenziali, come hanno fatto prima i coreani che hanno ammazzato i giapponesi, però poi ti sbatti, devi andare a comprare un ricambio, l'altro giorno si è spaventato un cliente, mi si è messo le mani in testa, hanno fatto, tu c'hai la macchina che ha 7 anni di garanzia, bellissima, con tutte le cose possibili e immaginabili, però non ti devi sbattere, lui l'ha pagata poco, ma poco, cioè la concorrente europea, se quella costa 20, l'Europa deve pagare 35, il rapporto era così, con le stesse qualità e quantità di opzione, però ha chiesto un fanale, abbiamo chiesto, anzi infatti poi alla fine l'ha cambiato, nel cofano anteriore c'è un profilo a LED che contorna tutto il cofano, quel pezzo lì costa 3.790 euro, infatti ha detto no, me lo tengo così, era scheggiato, rotto, ha detto quando lo faranno di concorrenza oppure qualche sfacciata rotta me lo compro, ma non esiste pagare una ciccia di LED 3.790 euro, se lo fate Gianfranco. Ma non, quindi era già fuori garanzia? No, si è sbattuto, questo non è roba fuori garanzia, si è seguito al muro, si è sbattuto, ha rotto il paraurti che costava una cifra esagerata. Il faro grande l'ho dovuto comprare per forza, il faro diciamo che fa la luce anabagliante e abbagliante, mentre la luce di posizione c'era tutta intera, tipo non so se l'hai mai vista con le luci con le strisce a LED, c'era tutta per la lunghezza del cofano. Anzi ci sarà 2-3 cm di larghezza, di altezza per tutta la lunghezza del cofano e quella costa 3.790 euro. È così, pro e contro, come tutte le cose, perché molte case si recuperano con proprio alcune cose lì, con la riparazione. Io perché ho cambiato la telecamera di lei, sono andato, ho detto aspetta la telecamera, perché lei le facciamo un bello sconto di 250, io ho detto scusi, 200, no non era più di, credo che fosse 400 addirittura, cioè la telecamera no, della Ford è quella che segue lo stesso, che non se ne può pagare di meno, la telecamera posteriore che si allinea con lo stesso. Ci vedo bene anche con quella che ci ho messo io, che costa credo 15 euro, non si allinea, infatti è tanto funziona. E non sono, ma sono talmente bastardi, e quelli sono gli americani della Sony, della radiomontata della Sony, che fanno in modo che che quella telecamera lì non sia compatibile con altre telecamere, perché è una sorta di telecamera particolare, fanno anche questi giochi. Io ho fatto prima, non sono stato alla radio, tiraggio una lampada dentro una busta, su un armadio, ho preso una radio cinese che è a 360 gradi, proprio tutto, fa anche da sistema di telecomunicazione, ho detto tutto. Sì, ormai le stanno mettendo su tutte le macchine, lo sai quante ne stiamo installando? Non io, miei nipoti li fanno, questa è dash camera, questa dico, io c'ho ancora quella che mi ha dato tu, ci credi, ancora dentro la scatola, non ho avuto neanche il coso di 10 che proviamo a accenderla, a metterla, proprio, non ho tempo di niente, ormai le stanno installando soprattutto per questioni di sicurezza, quando si sbattono le macchine in parcheggio che poi se ne scappano, oppure uno ti sbatti il tuo in un incrocio, una cosa del genere, registra tutto il coso, tutto il programma, tutta la videata e ce l'hai come scorta, anche come prova assicurativa quando c'è un incidente, che non c'è una rotatura, non si capisce la responsabilità, lo sai quanta gente lo sta mettendo questa roba qua. Oggi ho visto finalmente una retrocamera ad alta definizione, dietro, normalmente le viste le retrocamere hanno un'immagine a bassissima qualità, tutti i colori sgranati, questa era, vabbè non era un 4K, un HD era, ma veramente bene, finalmente riesco a inquadrare bella la definizione, come che guardi dallo specchietto retrovisore, benissimo, che avevi la copertura tutta intera, lo specchietto purtroppo non c'era tutto l'angolo di copertura visibile, questa era una macchina, che cavolo di macchina, lasciami ricordare, forse una macchina, ah no, proprio la Kia, sto dicendo così, la Kia proprio c'aveva questa telecamera, questa Kia nuova, un SUV della Kia, bella devo dire, dentro anche, c'ha un'accelerazione con la macchina, è una ibrida, ma tu devi vedere come scatta questa, come schiacci l'acceleratore, sgomma, è una cosa spaventosa, solo elettrico, come dico. Sì, ma non sono molto elettrico, perché si incorpora la benzina al vento, ma io con la caccia a bordo, e sull'HD 4K, ma non lo metto il 4K perché è troppo lungo, è troppo elaborata l'immagine e non è necessario. Quando rilevo le targhe, mi va tutti per me, ce l'ho sia nel portellone e sia davanti, inquadra tutta la zona con le spite 20 ad ampia visuale, quindi anche le macchine che sono sulla sacrestia, ha tante funzioni e va bene perché ce lo hanno, non avendo all'interno batteria, perciò dei condensatori, non c'è l'effetto di tutte le dash cam, anche delle scottose che vanno in tilt proprio a causa delle alte temperature che raggiunge il telecamera. Questa qua non le fa un tutto. Tu figurati se mi è capitato di lasciare il telefono in macchina, e neanche tanto di verità, diciamo il mese scorso, che già le temperature iniziavano a abbassare. Normale sono andato a prendere anche le macchine, ho visto che c'era la luce alert, rosso, e ho preso il telefono, cioè proprio perché all'interno della macchina ormai non bisogna lasciare nessun oggetto, diciamo, figurati che fortunatamente le torce sono in alluminio, con le sedie senza, in caso di esplosione non faccio saltare in aria la macchina, sono temperature in collega. Giafra, scusami un attimo, devo notare 5 minuti, riprendo subito. Sì, sono qua. Rieccomi, Giafra. Sì, sono qua. No, mi sono sfruttato un attimino che stavo facendo un diploma, ho visto che adesso c'era l'antifrattore, mi mancava un punto per arrivare al bronzo, al diploma bronzo, infatti l'ho beccato al volo, stavo guardando il cluster e dovrei averlo fatto, perché ieri me ne mancava uno per arrivare al punteggio, così tanto per fare qualcosa, dai. Ho fatto quello della 130 anni della radio, di lì ho fatto una bella figura, dai. Nel mondo 335esimo sono arrivato, e considerando che io l'ho fatto in un unico modo, al contrario degli altri che c'è gente che fatto in 5 e in 6 modi e non c'è gusto, c'è gente che poi ha fatto il furbo che si mettevano in 4-5 persone a fare i collegamenti in FT8, è troppo facile così. Quello no, come diceva, che era proprio, non metto lingua perché questo non è il mio campo, sono totalmente assolutamente ignorante. Ma non c'è Ragusa, infatti ho detto datemi l'oxitol, ho mandato una mail al responsabile al segretario dell'organizzazione, ecco, c'erano 66.000 stazioni attivate, collegate, dai, non attivate, che cacciatrici, e ho fatto 335esimo, però ho guardato i punteggi, quelli che mi hanno superato, quelli in Sardegna soprattutto, ha fatto in 6 modi, io l'ho fatto solo in cose, in SSB e basta, poi quello ha fatto FT8, FT4, RTTY, in CW, cioè ha fatto tutto quanto, tiravano molti più di punti rispetto a me, facendo un unico collegamento, cioè sull'unica frequenza, lui faceva 5 modi, così non c'è gusto, ho detto falli in un unico modo e vediamo un po' quanti punti già hai fatto e basta. Di nuovo a te Gianfranco. Sì, io sono non proprio rispetto l'ignorazione, non so giusto cosa è il DX, ma molto approssimativamente io sono per le comunicazioni che mi divertono, ecco, che mi divertono, che mi interessano, tipo con le navali, eccetera, ma lo sento il pettriccio, dice guarda che ci servono questi ricambi a torto, ormai sì, sui 4, sugli 8 MHz, e quello è in Atlantico, col mare mosso, e dice tanta mia moglie, eccetera, eccetera. Ovviamente non parlano con me, parlano col corrispondente per ascoltare quelle cose lì. Qual è radio? Quella è radio perché è la radio che ti salva la vita, che ti rende il lavoro meno pesante di quello che è, perché tu lei lavori veramente a più brusco. E l'animatore è seduto lì, fa il collegamento per salvarlo, non va e quindi via con potenza esagerato. Io sono amico nelle sue 6 secondi, io sono sempre stato e sempre sarò SWL, magari non mi sono addentrato su certe cose come ti sei addentrato tu, ho iniziato con i satelliti, lì è stata la passione più grande, poi ascolto tutto in analogico, tutto quello che c'è da fare, quello che riesco a ascoltare, anche lui come te è fissato nel senso, è appassionato di stazioni oceaniche, navi che trasportano merci, qualunque cosa possano fare, lui ascolta tutto, c'è anche gli impianti dedicati, professionali naturalmente, lui ha lavorato nel mercato in marina, per cui c'è un sacco di roba, addirittura di prese da navi, è riuscito a recuperarle, e le stampanti per stampati i bollettini meteo, sat, eccetera, eccetera, tutto connesso al computer, infatti mi ha detto, se lo vuoi forse uno ce l'ho da vendere, però mi sarebbe piaciuto, però ci vuole anche il tempo per appassionarti, già ne ho tante di cose da fare e non riesco a fare neanche una bene, per cui ho detto no, lascia perdere per il momento, mi ha detto lo vuoi un radar, cioè il radar, quello che mi ha dato il radio goniometro, mi ha dato tante cose, tutti quella componentistica che ti ho fatto vedere, questo c'è un sacco di roba, e mi dice ogni tanto vieni a prenderti qualcosa, e dove me le vai? Poi tutta roba professionale, apparecchiature professionali, antenne professionali su frequenze che non sono diciamo per uso comune, e lui c'ha tante di queste robe perché aveva un laboratorio, le riparavano, ma cose ancora dentro la scatola, però è inutile, mi riempio di cose e poi rimangono buttate di lì, infatti con le antenne, lo stesso con le antenne marine, un altro giorno è venuto un amico, mi hanno dato un paio, ho dato anche una direttiva per l'ascolto delle stazioni marittime, e basta, c'ha dei dipoli, filari, e come si chiama? Non commutatori, come si chiamano? Aiutami, accordatori da palo, mi pare te li avevo fatti vedere dai navali, quelli tutti in metallo sigillati, però o fai una cosa o fai l'altra, io mi diverto un po' di blu, mi faccio qualche canto e basta, e boh, ogni tanto qualcuno lo ascoltiamo qua in 525 e basta, anche in avanti adesso c'è anche la possibilità di andare sui 1002 anche se non c'è nessuno, e boh, e ho finito, adesso c'ho tutto. Di nuovo a te Gianfranco. Purtroppo è così, io che adesso sono libero sono più prigioniero di prima, perché l'estate me l'ho passata prendendo lì, facendo manutenzione delle mie macchine per l'agricoltura. Poi problemi con la tratta da 7,8 pollici, con la tratta certa, per carità del cielo, ho comprato tutti i connettori, niente da fare, evidentemente c'è qualcosa sottoterra e non mi posso mettere anche a chiamare un escavatore per così riuscire quanto prima a metterci una canala e passare i miei paloni per buona partita. Quindi quella lì c'è un'altra tratta Cerflex disattivata. Insomma, in tutto questo ambaradano, poi c'ho l'apparato per rimasta, l'antenna contrasta, messa fuori e non collegata. Che ci posso fare? Ogni giorno ce n'è una, non parliamo, poi di cambiare se vogliamo. C'è sempre da sostituire qualcosa, da cambiare, da una manutenzione continua. Quindi di roba da fare, e spesso non riesce neanche a farle, no? E così un altro lavoro, se ne fate uno e c'è subito l'altro pronto. Poi capita tutto insieme, sembra che la sfiga si perseguì. Non lo so, nel frattempo lasciare che ora dei pavesini, come si suol dire, dai. Mari, se ci sei dopo, magari se ne ha ancora voglia a me, perché sono un po' stanchino, dai. Ti saluto, adesso sono contento che si sta ripopolando dei vecchi, come si chiama, delle vecchie querce da 27, perché stava morendo anche quello, ha detto bene Claudio, poi ne bastano due o tre di quelli, diciamo, che hanno voglia e si aggregano anche gli altri. Ti saluto Gianfranco, piacere ascoltarti, poi ci sentiamo anche da altre parti, già sei dove, quando vuoi. Oppure sai dove trovarmi. Ci sentiamo con calma. Ciao ciao, QRT. Ciao. OK, ciao Roberto, alle cruci. E tieni presente che comunque io sono al 99% oramai sono in digitale. Parlando anche con fuori, eccetera, per il digitale. Ok, ciao ciao, buona cena.